Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Caro chef, siamo arrivati praticamente a metà giugno, come stai? Oggi Toscana e Molise, Toscana e Molise. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Pier, ci siamo ancora con il nostro mix di regioni nord e sud, per cui ci siamo con la Toscana e il Molise pronti con la frittata di piselli, guanciale miele, meringa morbida, limone, mandorle. Poi invece per la Toscana pappa al pomodoro da condividere, polpo arrostito, per cui insomma mamma mia, già mi hai fatto emozionare. Guarda, passato un minuto, 56 secondi di puntata e già sono emozionato. Con noi c'è Cristiano Militello, un amico, un fratello, un uomo, un sex symbol, beh insomma quello un po' meno. Come stai? Sex symbol di primo lavoro, direi. Cari amici, bene, mi sono già sdilinquito la pappa al pomodoro, perché oramai essendo un toscano trasferta da lustri, io sento pappa al pomodoro, mi dovete portare la segatura perché me la son fatta addosso subito. Bello, quanto è buona pappa al pomodoro? È molto buona, ma allora il mio rapporto con la cucina della mia regione ultimamente è stato minato seriamente da un'intolleranza alla cipolla. E non gradendo né l'aglio, per motivi miei, né la cipolla, io l'ultima volta che sono andato a mangiare in Toscana, io metto subito le carte in tavola e ho detto all'oste: scusi, cosa mi può consigliare senza aglio e senza cipolla? E lui, in stile toscano, mi ha detto: un altro ristorante. Grande, grandissimo. Però ascolta Cristiano, guarda che devo dire che l'aglio e la cipolla non è che fanno parte della cultura, della tradizione italiana, però una salsa, una pappa al pomodoro che noi faremo, io adesso ho messo la cipolla, ma nel caso tuo farò un'eccezione per cui leveremo, Pier, l'aglio e la cipolla nella ricetta che daremo, così la dedichiamo a Cristiano. Perfetto, la togliamo, però va bene, ok, la togliamo a lui, poi la riaggiungiamo a me. Io devo dire, la cipolla è una cosa che mi manda ai matti, penso che per te sia stato un trauma, no? Sì, anche perché ci ho messo 2 anni per capire che era la cipolla, perché è chiaro che parti da tutte quelle classiche, certo. E quindi è il lattosio, poi solfiti, le cose, fino ad arrivare alla cipolla che sta ovunque, e quindi ho trovato anche un dado di verdure, che è l'unico dado che c'è che non contiene la cipolla, perché sono diventato cintura nera sono decipollizzato. Diventato onion free. Devo dirti, tanto insomma, non ti dà fastidio, non metto un dito nella piaga, che una decina di giorni fa stavo in gommone al largo di Gaeta, località straordinaria. Bellissimo. E c'era il mio amico Raffaele che aveva fatto una meravigliosa caprese, c'era della mozzarella, c'era della provola affumicata, cosa meravigliosa, ha fatto questi pomodori con questa cipolla, e alla fine lo olio, pomodoro e cipolla col basilico, col sole, è una roba. Poi certo, la cipolla ha anche delle altre controindicazioni dal punto di vista, diciamo, del rapporto, dell'interazione, ma tanto siamo in un periodo nel quale dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, si può anche usare. Anzi, potrebbe essere utilizzato, diciamo, prendiamoci un po' su, esatto, può essere utilizzato come un buon alleato, visto che è importante giustamente mantenere le distanze. Cristiano, ma qualcosa striscia lo striscione, striscia il menù, cioè trovare nei ristoranti gli errori. I cartelli. Si potrebbe fare, no? Cosa dici? Ma diciamo che io, da ragazzino curioso, mi è sempre cascato l'occhio, andavo subito a vedere che fosse in pizzeria, che fosse altrove, come era scritto Würstel o come era scritto whisky, erano le parole che poi si prestavano agli errori. Però devo dire, è un filone quello proprio ricchissimo. Senti, ma sai anche cucinare in tutto questo? Voi parlate con la cintura nera di Spinacina e uno che succhiava i sofficini come gelati, nemmeno cuocendoli, come fossero dei cremini. Certo. No, ho allargato molto, perché avendo poi bambini per 2 settimane al mese con me, ho dovuto un po' allargare le mie sfumature, il mio ventaglio, la mia gamma, e quindi mi sono messo a fare, ho qui 2 o 3 piatti, uno di un collega di Davide che si chiama Michele Biagiola. Uno spaghetto con alici, pomodori secchi e menta. Senti cosa ti dico. È bello, molto fresco, mi piace. Anche molto estivo. Mi piace. Sì, molto, molto sfizioso. E poi faccio anche una discreta cacio e pepe che, come voi due mi insegnerete, nonostante sia un piatto apparentemente basic, in realtà è anche abbastanza complesso, insomma, specie farlo bene. Quindi, è tipo la fusione a freddo, cioè è complicatissima perché il punto di mantecatura è complicato e si presta anche la cacio e pepe a tutta una serie di diverse interpretazioni. Ma perché appena qualcuno pronuncia la parola cacio e la unisce con pepe io comincio a parlare in maniera così da solo? Va bene, invece mi vuoi fare la ricetta di prima della menta? Vogliamo fare un jingle? Ce l'abbiamo un jingolino? Così glielo, ecco, vuoi dirci la ricetta di prima, quella con gli alici, la menta, i pomodori? Guarda, in realtà fai un soffrittino con l'olio e con i pomodori secchi, poi ci sono dei tocchetti di alici, quindi cuoci la pasta, la finisci di, appunto, non so il verbo adatto, ma diciamo così, la finisci di cuocere poi in padella, girando con questo impasto di alici, pomodori secchi, olio di oliva extravergine, e poi a crudo metti delle foglioline di menta, quindi abbastanza molto gustoso e anche abbastanza semplice. Che dici, chef? Beh, direi bene. Magari non stracuocere le alici, giusto? No, ma mica stracuocere le alici. Ragazzi, una persona seria, mica stracuocere le alici. Dai, su. No? Ora, per la prossima volta farò qualcosa, farò tipo la faraona, vi stupirò. Per ora accontentatevi di pomodoro secco, alici e menta. Questo, no, ma mi piace. A casa. Mi piace. Poi è estivo. È un piatto estivo, un piatto fresco. Il soffritto che ha detto Cristiano, secondo me è molto bello, perché farlo con solo il pomodoro secco, secondo me è il suo, perché aggiungerei magari dei piccoli dadini di sedano e poi è perfetto. Bene. Me ne aggiunge il sedano, Militello? Sì, prossimo passo, sì. Quindi io annovererei, quindi dopo l'effetto Madeleine di Proust e l'effetto cacio e pepe di Pardo, perché tu ti promuovi, certo. La cacio e pepe è la mia Madeleine. Senti, ma tu che viaggi continuamente, insomma, in giro per l'Italia con queste meravigliose gag, con questi personaggi fantastici, veramente la commedia dell'arte che riesce a tirar fuori straordinari, che sono l'essenza del pallone e del nostro paese. Insomma, il cibo quanto è presente? Quanto si presta al gioco, al divertimento, alla battuta, alla presa in giro? Innanzitutto è uno dei pochi vizi che mi concedo, i vizi ne ho pochi, però diciamo che essendo una vita poi sgangherata da zingaro, sempre in eterno movimento, è uno dei pochi lussi che mi concedo, quindi mi piace anche in base a dove vado scegliere magari un ristorante per arrivare la sera prima o per quando uno ha finito vuole mettere, ecco, con tutto il rispetto per le rustichelle e per gli autogrill di tutta Italia che comunque continuo a bazzicare, anzi credo di essere azionista, insomma, alla fine una loro funzione. Alla fine, no? Hanno una loro poetica, però insomma, certo. Ecco, se poi uno riesce anche a vedere le stelle, diciamo certo. Così, per usare un eufemismo, è anche meglio. Quindi c'è posto, insomma, nella mia esistenza per il cibo, non è assolutamente trascurabile, è uno dei pochi piaceri che mi concedo, insomma. E devo dire poi, allo stadio invece, vabbè, c'è un altro tipo di impiattamento, diciamo così. Ho visto entrare, cioè superare i controlli con teglie di parmigiana, di melanzane, delle bello, zeppole, le cose, bello, cioè. Beh, fa un po' calcio antico, bello, romantico, insomma, il andare allo stadio col panino preparato da casa o addirittura con la melanzana, la parmigiana, insomma, è bello, fa parte. Devo dire, avendo un po' schifato le morse, i controlli che comunque ci debbono essere, negli ultimi anni sono tornato a seguire campionati minori dove ovviamente le tenaglie sono più allentate, larghe, certo. e quindi ci si permette anche, insomma, questo aspetto ruspante di gente che vive ancora il calcio così come happening, e quindi insomma quando cominci a giocare 2:30, 3 vedi la gente che comincia ad arrivare all'1 e mangia allo stadio, ma mangia nel vero senso della parola, insomma, certo. Ecco, insomma, beve anche se per quello, però roba seria. Senti, ci fermiamo solo un istante perché abbiamo la pausa, ma ritorniamo anche perché così ci ascoltiamo, dai, ascoltiamoci la pappa e vediamo, e poi diamo il voto a Oldani. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo col professor Militello e stiamo per ascoltare, visto che è una puntata dedicata alla Toscana e poi parleremo anche del Molise, ma insomma stiamo per ascoltare la pappa col pomodoro da condividere. E qui, chef, c'è anche un tema che fra l'altro in qualche modo è tornato anche prepotentemente alla ribalta in questi mesi, perché sappiamo che anche il cibo, ovviamente i ristoranti e anche i pranzi con le altre persone devono essere approcciati in questo momento con le giuste distanze e con le giuste precauzioni. Quindi diciamo che questa mappa al pomodoro quant'è da condividere? Ce la possiamo permettere adesso o la dobbiamo rimandare alla fase 6, alla fase 7? Perché insomma... No, è possibile farla anche adesso, la stessa ricetta, anziché metterla in una teglia come descrivo nella ricetta da 20 cm alta 6, facciamo delle piccole tegliette, piccole casseruole da 7, 8, 10 cm, per cui ognuno ha la sua. La monoporzione in pratica. Non cambia, esatto. Io non magari me ne prendo tre, se non ti offendi, però mi prendo tre mono, però insomma alla fine il concetto non cambia. Perfetto. Allora sentiamo la ricetta, sentiamo la ricetta. Perfetto. Queste teglie che consiglio magari sulla monoporzione, cambiamo un po' la ricetta e mettiamo delle teglie in terracotta. Noi facciamo, prendiamo questi nostri quattro pomodori ramati, li facciamo sbianchire, li sbucciamo, togliamo i semini interni, li teniamo da parte. In queste piccole tegliette monoporzione, piccoli tegami in monoporzione, mettiamo la cipolla tagliata finemente. Io direi che questa cipolla, siccome abbiamo detto che la dedichiamo a Cristiano, possiamo o levarla, oppure per alleggerirla possiamo sbianchirla. Una volta tagliata a cubetti, questi 100 grammi, li possiamo sbianchire in acqua salata abbondante, poi scolati, per cui perde un po' quel gusto forte. Altrimenti rimpiazziamo la cipolla con 100 grammi di sedano bianco tagliato a cubettini e più o meno 50 grammi di carota. Cosa facciamo con queste due verdure? Li facciamo rosolare nelle monoporzioni di teglie in terracotta con un goccino di olio, con 50 grammi di zucchero, 2 decilitri di aceto di vino bianco che facciamo evaporare totalmente, e poi bagniamo questa verdura facendola cuocere per una decina di minuti con 2 decilitri di brodo di carne. Un brodo di carne può essere un brodo di carne mista oppure un brodo di carne un po' più leggero di carne bianca come può essere il pollo. Un rametto di rosmarino nel frattempo che cuociamo, poi nel caso non ci fosse Cristiano a cena mettiamo uno spicchio d'aglio in camicia, altrimenti non lo mettiamo direttamente. Quindi una volta che abbiamo cotto per una decina di minuti questa base di verdure, di rosmarino, di brodo, di vino, di aceto di vino bianco evaporato, aggiungiamo le nostre falde di pomodoro che abbiamo preparato precedentemente, le intercaliamo l'una con l'altra nelle nostre monoporzioni, aggiungiamo un pizzico di sale grosso sopra, un po' di olio extravergine d'oliva, copriamo con un coperchio e inforniamo. Più o meno cuociamo per 50, nel caso della teglia grossa, però in questo caso secondo me una trentina di minuti sono più che sufficienti, a 160 gradi. Una volta che abbiamo cucinato il tutto, leviamo, possiamo aggiungere dei piccoli pezzettini di mollica di pane che non abbiamo neanche imbevuto, che abbiamo strappato proprio un po' selvaggiamente dal pane, le appoggiamo sopra a questo nostro pomodoro cotto, e poi infine una grattugiata di pecorino e delle piccole foglie di basilico. Poi serviamo, potrebbe essere un piatto per iniziare, quindi un antipasto, oppure potrebbe essere un accompagnamento a una carne. Che dice Militello? È convinto? Ma sì, ma accidenti, mi aveva convinto già al jingle. Prima di cominciare, quando hai sentito la sigla già eri convinto. Fantastico, e apprezzo anche poi il doppio binario che ha preso per venirmi incontro, quindi farò tesoro casomai del sedano anziché della cipolla. Grazie chef. Ciao amico mio, in bocca al lupo, è che la cipolla possa tornare un giorno nella tua vita, o insomma comunque senza nessun problema, ci mancherebbe altro. Pasquale Gravina, allora andiamo in Molise, tu sei uno della generazione dei fenomeni. Ciao Pasquale, sei nato a Campobasso fra l'altro, quindi io insomma sono nato a Campobasso. Per Luigi ti ringrazio per l'invito che mi avete fatto tu e chef Oldani. Capisco che avrai fatto una ricognizione per cercare di trovare fuori un personaggio, purtroppo ti tocca parlare con me perché per gusto non c'è più purtroppo dall'anno scorso, per cui finché farai questa trasmissione, se parli di cucina molisana Tocca, va bene, mi sembra un'ottima, un ottimo affare, un ottimo deal. Fra l'altro, insomma, generazione dei fenomeni, come riporta Wikipedia, è una definizione di Jacopo Volpi. Approfitto per abbracciarlo, ovviamente, amico e conduttore della Rai. Generazione dei fenomeni, vera quella, cioè lì erano proprio le eccellenze, quelle vere, perché in quegli anni lì abbiamo insegnato a giocare a pallavolo al mondo, o no? Guarda, ti abbraccerei quando fai queste dichiarazioni d'amore spontanee. Beh, no, diciamo che se ti danno il premio di squadra del secolo non te lo danno solo perché hai vinto, perché per fortuna come pallavolo e come sport in generale in Italia abbiamo una bella tradizione. Per vincere un premio così vuol dire che hai fatto un po' la storia, e in effetti quella nazionale lì l'ha fatta non tanto e solo per le vittorie, ma soprattutto anche per come scendeva in campo e per come gestiva vittorie e sconfitte. Bernardi, Anastasi, Gardini, De Giorgi, Lucchetta, Zorzi, Mastrangelo, insomma, era in ottima compagnia, lo ricordiamo, Vullo, insomma, la squadra pazzesca. Sì, Bernardi, molto importante quello che ha detto, della gestione delle sconfitte più che delle vittorie, giusto? Ma guarda, la sconfitta la gestiscono un po' tutti, perché se c'è un ristorante che non funziona o una radio che non vende, se non gestisci la sconfitta ti ritrovi subito a fare un altro mestiere. Quello che invece si fa poco, perché si tende a dare per scontato, è la gestione della vittoria, cioè quando le cose vanno bene. È lì che c'è, si insinua il pericolo del declino, perché ti senti forte, e quando ti senti forte non vedi più i pericoli. Quindi in realtà è più la sconfitta una cosa normale da gestire, è molto meno naturale gestire la vittoria, ma è quella che ti permette le strisce di successo. Sentire, parliamo un po' di cucina molisana, anche perché Pasquale, tu ci hai quasi scherzato sopra, del Molise si sa poco, no? Ed è un peccato, perché invece è una terra estremamente ricca, un territorio relativamente piccolo ma estremamente ricco, ed è anche estremamente vario sia dal punto di vista diciamo geografico, che dal punto di vista poi delle specialità e delle tradizioni. Allora, guarda, Pierluigi, io mi sono dovuto difendere per una vita in nazionale dal fatto che venivo da una regione che non esisteva, per cui capisci che ormai ho sviluppato anticorpi a prova di qualsiasi attacco, perché noi siamo come regione un po' una Svizzera del sud, no? Io me la giocavo così. Però hai ragione nel dire che è una regione probabilmente poco conosciuta, perché non è su una direttrice principale, non ha particolari, non è un polo industriale, quindi è meno conosciuta di altre, ma hai molto ragione quando dici che ha delle bellissime tradizioni. Io ovviamente non sono uno chef, quindi non mi avventuro in descrizioni culinarie dove poi sennò Davide mi bacchetta, però posso dirti, dimenticando evidentemente molti piatti, i piatti che a me facevano sentire a casa o che mi ricordano, significano l'infanzia per me. Uno dei piatti più importanti che nella tradizione molisana, a Campobasso in particolare, sono i cavatelli al ragù, non so se li conoscete. Certo. È il cavatello che si fa con una o due dita a seconda della grandezza. Quando io tornavo a casa, mia madre, se voleva dirmi ben tornato a casa, mi faceva i cavatelli al ragù, che sono per me un piatto straordinario della tradizione. Un piatto che forse non conoscete, che è un'antica ricetta molisana, che comunque è una cucina povera perché non ha gli ingredienti di altre regioni più ricche per ragioni storiche, geografiche, no? Come da un punto di vista di tradizione, io ho vissuto tanti anni in Emilia Romagna, che è una regione che conosco bene, ecco, i piatti emiliani nel Molise non esistono, quindi è una cucina molto più semplice. Però per dirti, c'è un piatto che fa parte della nostra tradizione che si chiama pizza e minestra, e si fa con le verdure tipiche del territorio, come non so, le cime di rapa o la cicoria, che vengono bollite e poi saltate, un po' di aglio, un po' di peperoncino, e la pizza in realtà è una specie di polenta più dura che diventa croccante. Sì. Questo è un piatto molto antico della cucina molisana, è molto conosciuto. Non so, pizza se e foglie, no? Oppure pizza e foglie? Pizza e minestra, pizza e minestra. Pizza e minestra. Insomma, scusami Pasquale, ma la pizza, dicevi la polenta, mi puoi spiegare una polenta, quindi una farina di mais? Sì, si fa con una farina di mais, si mette un po' meno acqua per farla diventare meno densa e affinché diventi più croccante. Poi quando tu la mangi insieme alle verdure diventa una pizza croccante, quindi molto, molto gustosa. E le verdure sono bieta, cicoria, cime di rapa, no? Cioè tu, quelle, insomma, il territorio, il territorio. Voi? Il territorio. Un po' polentoni anche voi. Sì, ma infatti ti sentivo in altre puntate quando parlavi anche di minestra, eccetera, poi il territorio italiano è molto vario, insomma, però alcuni punti di contatto, soprattutto in alcune regioni del sud, in particolare del centro-sud, insomma, le verdure la fanno sempre da padrone, no? Non c'è la polenta come al nord, che invece ho imparato a mangiare soprattutto in Veneto. È una polenta un po' rivisitata, diciamo così. Va. Allora, senti, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, chef, preparati, perché facciamo adesso con Pasquale, facciamo la frittata di piselli, guanciale e miele. Mangia come parli, mangia come parli. Siamo con Pasquale Gravina e ovviamente con lo chef Oldani, abbiamo ascoltato Militello, puntata dedicata a Toscana e Molise, stiamo mescolando ovviamente i sapori, le tradizioni, le ricette, abbiamo appena sentito parlare di questa pizza e minestra molisana, davvero molto interessante, io adesso mi sono anche messo un'immagine qui davanti sul computer e devo dire che anche dal punto di vista visivo può essere un piatto molto bello, molto molto verde, molto, molto estivo e molto fresco. Invece lo chef ci propone la frittata di piselli, guanciale e miele e io gli lascio la parola proprio così con devozione. È una frittata un po' più tecnica, perché facciamo in una bacinella, diluiamo 80 grammi di farina bianca, cosa che per una frittata molto italiana magari è rara, però 80 grammi di farina bianca, un decilitro di latte fresco, aggiungiamo più o meno 600 grammi di uova intere sbattute precedentemente con l'aiuto di una frusta, poi filtriamo tutto al colino. A parte sbucciamo e tagliamo a fette sottili 200 grammi più o meno di cipolle rosse, le facciamo appassire lentamente in una padella dal diametro di 20 cm con 50 grammi di zucchero che danno un po' di dolcezza, 2 decilitri di vino rosso che facciamo, di aceto di vino rosso che facciamo ridurre totalmente per una decina di minuti e poi alla fine aggiungiamo 40 grammi di miele di fiori sulla parte di questa cipolla, lasciamo insaporire leggermente, dopodiché una volta che abbiamo fatto questa cipolla rossa molto acidula, molto mielosa, aggiungiamo il nostro apparecchio in gergo che si chiama di uova e cominciamo a far cuocere la frittata con una temperatura del fuoco del calore molto bassa. Alla fine serviamo questa nostra frittata con delle piccole fette di guanciale affumicato, dei pisellini crudi, fini, che mettiamo sopra che daranno un po' il croccante, un po' questa parte anche tannica che i piselli hanno, e poi basta, e poi serviamo con, se volessimo alla fine, ancora un goccino di miele sopra a questo lardo e a questi pisellini che abbiamo messo alla fine. E ricordiamo, i piselli li metti a crudo, no? Il guanciale invece lo metti alla fine, crudo, della cottura. Crudo. Ok. Il guanciale è tagliato finemente, appoggiato, esatto, solo sopra, che poi il calore della stessa frittata lo scioglie e non lo scioglie. C'è un gioco di vedo non vedo. Gioco di vedo non vedo. Pasquale, ti ha colpito? Mi sembra che ci siamo, no? Ragazzi, bravo. Guarda, mentre chef Oldani parlava, ho iniziato a salivare come un alano. Va bene, mi sembra che renda l'idea. Ti senti, ma Velascovi che faceva? Che mangiava Velascovi? Mi togli questa curiosità, insomma, in quegli anni lì. Beh, più o meno mangiava quello che mangiavamo noi. Avevamo un regime alimentare che era un po' per tutti, dai. Anche perché noi non potevamo stare a stecchetto e lui mangiava aragoste alla catalana, insomma, no, se no dopo ci mettiamo di traverso. Lui più o meno mangiava le stesse cose che mangiavamo noi quando eravamo tutti insieme, poi quando era da solo ovviamente non lo so. Certo, ci avete regalato grandi emozioni, devo dire che insomma Atlanta, vabbè, le Olimpiadi forse sono un po' la cosa che sulla quale si poteva fare ancora meglio, ma insomma la medaglia d'argento che ha preso l'Atlanta, la medaglia di bronzo di Sydney e poi i campionati mondiali, i campionati europei, le World League, veramente sono stati gli anni d'oro del grande volley, quindi grazie al professor Gravina, 284 caps e grande orgoglio molisano. Grazie Pasquale, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie, a presto. Assolutamente, quando vuoi siamo qui e ti aspettiamo. Devo dire che per il Molise vale un po' lo stesso discorso che si faceva la settimana scorsa con Rocco Papaleo sulla Basilicata, nel senso che è vero che è una regione abbastanza piccola come territorio, ma una regione molto varia, perché insomma il lato occidentale è non lontano addirittura dal Mar Tirreno, non lontano dalla mia amata Gaeta, da insomma lì ad aria credo siano 40-50 km, non di più, quasi a Cassino, e poi invece c'è tutta la parte costiera che è sulla, appunto sull'Adriatico, con Termoli, con tutte le altre località. Andiamo con lo Spazio News, dai, andiamo con lo Spazio News. Anche perché mai come in questo momento le news sono importanti per monitorare la crescita, la ripartenza, gli obiettivi, anche i problemi che ci sono in tutti i settori collegati al cibo. Allora, partiamo dal barometro della guida Michelin, che segnala le tavole stellate aperte. Nel mondo soltanto 21% dei 3.000 ristoranti top, cioè dei 3.000 ristoranti stellati Michelin, sono attivi post-Covid, e questo insomma racconta quanto sia stato mondiale questo fenomeno, appunto una pandemia, neanche un'epidemia, una pandemia. Ogni settimana il barometro registrerà il numero di ristoranti stellati Michelin aperti nelle 32 destinazioni che pian piano ripartono. Se immagino che anche Oldani abbia vissuto problemi in queste settimane, come ovvio. Ma che totalmente... sia, no? Totalmente lockdown per noi è stato chiusura totale. Noi abbiamo fatto esattamente 3 mesi di chiusura totale, per cui abbiamo provato sulla pelle quello che vuol dire, cioè, il blocco totale di un'azienda, di un'economia, e adesso con le dita incrociate siamo pronti alla ripartenza. Assolutamente. Poi lo smart working è importante perché sta cambiando un po' le abitudini, almeno in alcuni settori dove non è prevista la presenza fisica del lavoratore. Insomma, lo smart working sicuramente sta crescendo rispetto al passato. Il lavoro agile piace al 56% dei dipendenti, però così come è giusto interrogarsi sulla necessità della pausa, perché stare in smart working non significa essere operativo H24, è importante anche lo smart eating, chiamiamolo così. Le regole da seguire nell'alimentazione da casa, lavorando da casa, come spiega lo specialista della scienza dell'alimentazione Michelangelo Giampietro, sono quelle di prestare attenzione a ciò che mangiamo per evitare i cali di energia e per conservare una buona condizione tanto fisica quanto psicologica. Quindi insomma, chiaramente c'è più margine, perché stando a casa c'è più possibilità di cucinarsi le cose da soli e di scegliere i prodotti giusti rispetto magari a una mensa o a un bar. Però attenzione, non è un dettaglio, fa parte ovviamente della qualità della nostra vita. Poi, a proposito di grandi ristoranti, Rix ad Amsterdam resta chiuso. Le cene si fanno in loft privati, che appunto sono trasformati in unità private, 25 sono, dove coppie di amici, familiari e partner possono godersi in serenità la grande qualità del team di Rix, che è un ristorante d'eccellenza, quello guidato da Diedendijk. Insomma, anche qui ci si aggiorna e si prova a vivere un'esperienza, a trasformare però quasi in un'opportunità, no? Esatto, volevo dire una cosa sulla notizia precedente, che sicuramente ci sarà una posizione della ristorazione, dell'accoglienza nei ristoranti, che sarà leggermente diversa, perché avendo lo smart working che adesso ci applicheremo, evidentemente i ristoranti che erano abituati a lavorare sul pranzo per le aziende che lavoravano dagli uffici, diventerà un'altra sezione dell'economia difficile sulla quale bisognerà riflettere, no? Certo. Sei d'accordo? No, ma assolutamente, insomma. E poi è tutto ovviamente in divenire, servono interventi sempre urgenti, strutturati e flessibili, perché appunto lo scenario, l'abbiamo visto in queste settimane, è cambiato continuamente. Poi i salumi, tema particolarmente importante, la serrata dell'Oreca, cioè di tutto il settore ovviamente ristorazione, alberghi e catering, ovviamente pesa, per cui insomma cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, anche perché ho letto di una presa di posizione da parte di Assica, che è l'associazione di categoria, che esprime soddisfazione per le misure agroalimentari adottate sul decreto rilancio. Io coinvolgo Nicola Levoni, presidente di Levoni S.p.A. e di Assica. Insomma, l'associazione industriale delle carni e dei salumi è soddisfatta di questa ripartenza? Sì, buongiorno. Buongiorno Nicola. La ripartenza, come diceva Oldani, che saluto, ovviamente è una ripartenza che ha avuto, diciamo, a varie velocità, perché noi abbiamo visto, non abbiamo mai avuto un'interruzione, essendo uno dei settori strategici. Comunque diciamo che le aziende del nostro settore, credo che sia per l'esperienza, perché sono sì tante imprese, tante piccole e medie imprese, però molte abituate ad esportare nei paesi più lontani e a servire clienti molto esigenti, anche e soprattutto esteri, i quali chiedono degli standard di sicurezza alimentare molto molto alti. Invece in Italia abbiamo avuto anche un certo un calo di consumi sul banco taglio. Uh-huh. Questo è stato in parte Nicola, sul banco taglio credo sia stato normale per il lockdown, però il salume io l'avevo messo come uno degli ingredienti dei prodotti da spesa sicura, da spesa intelligente, cioè per cui poteva essere comprato. Avete anche mille altre situazioni come le vaschette preconfezionate, esatto. Quindi tutte certificate, sanificate, protette, eccetera, che hanno fatto sì che si potesse fare una spesa intelligente all'inizio e durante la pandemia. Sì, l'effetto che si è avuto è questo, che sono cambiati, c'è stata una modifica, diciamo, dell'approccio ai consumi, quindi la gente si è spostata dal banco taglio alle vaschette, sia per una questione di trovarsi un prodotto confezionato, ma anche perché, avendo magari fatto una coda all'esterno del punto vendita, a rientrare dentro e dover fare un'altra attesa di un operatore che deve prepararti il prodotto, all'inizio le abbiamo viste le corse a riempire il carrello, hanno avuto questo effetto di grande spinta del consumo dei prodotti preaffettati, che ovviamente hanno avuto un effetto positivo sui fatturati, ma non hanno compensato i volumi, ovviamente, è diverso, certo, vendere tante vaschette o vendere un prodotto intero che ha un peso diverso. Grazie a Nicola Levoni, ovviamente in bocca al lupo, siamo qui nelle prossime settimane per continuare a monitorare la situazione. Fra poco ancora due ricette, gli USS Soldani, altri ospiti, fra poco Toscana e Molise, vai! Mangia come parli. Tranquillo siamo qui noi, filosofi playboy, Zerbini alle 8:30 puntuali al bar. Lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta, tacchi a spillo e sguardo da star. E gli amici che ti vedono con lei, sanno già che il gol tu non lo segnerai. L'ultimo passaggio non lo azzecchi mai, ora è sempre pedalare i cazzi tuoi. Tutti con i culi a terra, eroi Rogers come jeans. Una canzone come gli 883, beh, insomma, anch'io ho dato il mio contributo, ho cercato di non rovinare troppo la situazione, ma la causa era assolutamente benefica con Max, con Lodo Wenzi, con Marco Giallini, con J-Ax, con Mischilla, con Jake La Furia, con tantissimi altri amici, perché anche il mondo della musica, con tutte le figure magari meno conosciute, non certo le star che non hanno magari problemi economici, ma le persone che lavorano nei concerti, nelle case discografiche, in tante situazioni un pochino più marginali, beh, lì invece la precarietà è tanta e questa pandemia rischia di far male. Allora, abbiamo ancora due ricette da fare. Io mi giocherei, vabbè, la meringa la facciamo dopo, dai, va bene, già t'ho capito il Dani. Facciamo il polpo. Polpo arrosto con salsa al dragoncello. Torniamo in Toscana, vai. Molto facile, molto facile. Ammorbidiamo 100 grammi di pane con un decilitro. Facciamo una salsa. Il concetto è una salsa e poi il polpo bollito. Allora, 100 grammi di pane, che con un decilitro lo mettiamo in ammollo, con un decilitro di aceto di vino bianco, un decilitro di acqua calda e lasciamo per una ventina di minuti. Dopodiché lo strizziamo, lo aggiungiamo a 100 grammi di foglie di dragoncello lavate ed asciugate per bene. Mettiamo il tutto in un frullatore e frulliamo, aggiungendo 6 centilitri di olio extravergine di oliva. Io, come al solito, tu Pier sai, un taggiasco. Sì. Otteniamo quindi una salsa molto cremosa, setata, la filtriamo in un colino fine e la teniamo da parte, magari in frigorifero per renderla ben fredda. Facciamo poi per il polpo, lo cuociamo un polpo di 1 chilogrammo più o meno in acqua acidulata con un po' di aceto e salata. Separiamo i tentacoli dalla testa, per cui cuociamo 20 minuti più o meno la testa e dopo altri 20 minuti leviamo i tentacoli, per cui una quarantina di minuti in totale. Le ventose, allora, per capire che il polpo sia buono e ancora turgido, la consistenza giusta, dovremmo fare in modo che le ventose stiano attaccate ai tentacoli, perché nel momento in cui si staccano vuol dire che il polpo è ben cotto e per cui perde consistenza e perde anche molto del gusto nell'acqua di cottura. Una volta che abbiamo terminato la nostra salsa, la nostra testa del polpo, i nostri tentacoli, possiamo in una padella calda aggiungere un goccio di olio, facciamo arrostire leggermente i tentacoli, se volessimo anche la testa del polpo, li facciamo arrostire per bene, dopodiché mettiamo il tutto in un piatto, in una ciotola, copriamo, nappiamo leggermente con la nostra salsa al dragoncello fredda, adagiamo 2 grammi più o meno di nocciole che abbiamo fatto tostare e, se volessimo, o intere oppure grattugiate sopra questa salsa di dragoncello, polpo arrostito sopra, possiamo quindi servire. E alla fine, come tu sai che a me piace, anche una gentile grattugiata di buccia di limone. Per beh, cui abbiamo che questa donna, salsa, diciamo, molto fresca, acidulata. Fresca e un po' acidula. Beh, molto interessante. Il senti, polpo e poi è una salsa anche di pane, direi, Pier. Qui tra le cose che mi scrivi c'è anche, mi dice, occhio perché si può usare il gambo del dragoncello per aromatizzare, cioè una ulteriore idea? Assolutamente sì, il gambo del dragoncello con l'aceto di vino bianco lo lasciamo in infusione un paio di giorni, vale a dire che le foglie le abbiamo usate per fare la salsa, poi nel caso abbiamo questo gambo che è un po' più duro, quindi non è possibile frullarlo, per cui lo lasciamo in infusione con un po' di aceto, ci creiamo il nostro aceto al dragoncello che poi possiamo usare o per questo piatto o per altre, o per condire magari delle insalate, perché beh, il dragoncello è un'erba fresca, è un'erba fine, come io amo definire, per cui c'è in questo periodo che siamo appunto nell'estate per la freschezza dei nostri piatti. Mi piace molto. Andiamo all'SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Partiamo con Paolo da Milano. Salve chef, la mia domanda riguarda i carciofi. Ogni volta che ne pulisco uno, per quanto mi impegni, più di metà finisce scartato. Visto che comunque è un po' un dispiacere, esiste un modo per riutilizzare questi scarti, magari anche un po' creativo? Grazie mille. Devo dire che i nostri ascoltatori sono meravigliosi, in effetti, insomma, allora, non, diciamo, è, due non cose. È il massimo della vita quando, cioè, ti fa male, no? Ti piange un po' il cuore vedere tutto questo spreco. Allora, però vedi come si impegnano e mi fa molto piacere. Allora, anzitutto definire se è un carciofo quello più invernale, che non è questo che c'è adesso, che è quello con le punte, che è una cosa, oppure quello più semplice, che è la mammola, per cui lo scarto è relativo, perché abbiamo le foglie esterne che sono un po' più turgide, per cui le togliamo, e poi tutto il cuore lo possiamo levare, quella barba che c'è all'interno, che è difficile anche da mangiare, per cui è facile anche da levare, ma per utilizzare lo scarto del carciofo io andrei un po' di più sul gambo, sia in quello con le punte, sia nella mammola. Il gambo possiamo usarlo sbucciandolo per bene e poi facendolo bollire. Perfetto. Laura da Matera. Salve chef, una domanda. Da quando ho cambiato i fornelli e uso quelli induzione, non riesco più a preparare la ganache al cioccolato. La panna bolle direttamente, senza che compaiano le bollicine che indicano il momento giusto per mettere il cioccolato. Come posso regolarmi? Beh, io direi assolutamente sì, questo è un problema, perché bisogna solo fare attenzione, perché con l'induzione c'è una velocità totalmente diversa da quella che è il fuoco, per cui quando mettete sull'induzione, che sia la panna, che sia una qualsiasi altra cosa, state con gli occhi fissati, perché da un secondo all'altro rischiate di fare tragedie, per cui in questo caso immagino che la panna fuoriesca e sporchi e vada ovunque. Luca la Pescara. Ciao chef, volevo chiederle, per squamare il pesce serve un attrezzo specifico o posso farlo anche con un coltello da cucina? Sì, fallo con un coltello, Luca, da cucina è molto pericoloso, se ci fossero squamapesci sarebbe l'ideale. Ecco, perfetto. Mi piace, perché proprio gli SOS Oldani sono il momento più pratico, no? Delle volte sono proprio degli interrogativi un po' spiccioli, ma sono quelli più importanti, quelli più preziosi nella quotidianità. Abbiamo Gianluca De Cristoforo, ambasciatore, un altro ambasciatore onorario del gusto. Sapete che da quando abbiamo ricominciato dopo il lockdown cerchiamo sempre di avere almeno un ambasciatore del gusto ogni settimana su Idea dello Chef Oldani. Come andiamo, Gianluca? Come vanno le cose? Ciao, grazie dell'invito, saluto anche Davide, di cui ho preso appunti nella sua ricetta. Beh, da un punto di vista strutturale c'è una ripresa, c'è una lenta ripresa, c'è molta speranza, anche se i numeri ad oggi purtroppo fanno temere una lentissima ripresa, questo anche per via di politiche un po' non proprio strutturate e non proprio pronte a questo tipo di emergenza. Piero, ci tengo a precisare che con Gianluca abbiamo iniziato veramente adesso poi Gianluca lo spiegherà meglio, questa cosa della rete, cioè di unificare un po' tutte le idee, le esperienze, la volontà che noi ristoratori, noi ambasciatori del gusto abbiamo per poter arrivare a Roma, per poter arrivare al governo con delle proposte che possano essere coerenti con certo. Il mondo e concrete con quello che è il mondo della ristorazione attuale, che non è più il prima della pandemia, ma è l'attuale, che è, se vuoi spiegare Gianluca, che è diverso, giusto? Sì, grazie Davide. Sì, effettivamente gli ambasciatori del gusto nascono proprio con questa vocazione di interlocuzione con lo Stato, con il governo, ma anche con gli enti locali, e da registrare, come dicevi tu prima, una frammentazione di questo settore, no? C'è una miriade di realtà associazionistiche. Durante il Covid ci siamo resi conto che tutte queste realtà insieme alla nostra avevano bisogno di un aggregante, e allora ci siamo fatti promotori di un progetto, l'abbiamo chiamato Fare Rete. Ad oggi abbiamo più di 31 associazioni tra le più rappresentative d'Italia, per oltre 101.000 addetti, quindi un numero, una massa critica molto, molto considerevole. E con questo abbiamo provato a interloquire in maniera un po' più forte con la politica da una parte e con il governo e gli enti dall'altra. Devo dire che la politica è stata sempre un po' distratta verso questo settore. Vuoi l'eccessiva frammentazione, vuoi anche una sudditanza psicologica che ha questo settore nei confronti della politica, non abituato ad avere la stessa metrica. Noi abbiamo dato una direzione diversa a quello che poteva essere sia il supporto ma sia anche l'interlocuzione. Abbiamo fatto capire che oltre la bravura degli artigiani come Davide ci sono anche degli imprenditori come Davide, certo. Cioè la politica fino ad oggi ci ha considerato dei grandissimi artigiani, oggi ci deve considerare un po' di più imprenditori, cioè come non c'è soltanto persone. L'Oldani che genialmente ti fa la cipolla caramellata, ma c'è anche il capitano d'impresa che gestisce, non so quanti dipendenti hai Davide, ma penso tanti, che fa sinergie, che lavora con tutta una serie di partner, cioè la struttura, no? Non è soltanto un meraviglioso gesto che poi è la parte più bella forse del lavoro, che è il cucinare, che è il lavorare il prodotto, ma è anche tutto quello che c'è intorno. Abbiamo un minuto per chiudere, ma a questo punto ascoltiamo insieme lo chef Oldani con la meringa morbida, limone e mandorle. Vai chef. Premetto che naturalmente siamo ancora in Molise, ringrazio naturalmente prima, ringrazio Gianluca e forza ambasciatori del gusto. Torniamo in Molise con la meringa morbida, limone e mandorle, è molto semplice. Mettiamo in una sbattitrice 200 grammi di albume d'uovo, lo montiamo a neve ferma, aggiungiamo 100 g di zucchero cotto a 121 gradi, quindi questa è una meringa italiana, quando cuociamo lo zucchero lo aggiungiamo agli albumi d'uovo montati, li continuiamo a montare fino al raffreddamento totale. Dopodiché cosa facciamo? Mettiamo 4 cucchiaiate di questo impasto su una griglia da forno naturalmente, e cuociamo per un paio di minuti, 2-3 minuti, le meringhe a vapore. Questo era il vecchio metodo delle meringhe cotte con acqua e latte, abbiamo adesso modificato avendo della grande tecnologia anche in cucina con la cottura a vapore. Quindi adagiamo in 4 ciotole diverse queste meringhe, le cospargiamo con 10 g di nocciole grattugiate e per ogni ospite naturalmente, e poi un tocco di buccia di limone. Allora, questo metodo di fare questa meringa morbida è molto classica. Alla fine di tutto questo potremmo servirle con un cucchiaio di crema inglese, giusto per dare la cremosità, per dare ancora più freschezza a questo piatto molto classico. Questa stessa meringa poi cucinata in un forno statico con aria calda, tipo alla temperatura di 90 gradi, possono diventare quelle famose meringhe croccanti che noi amiamo. Assolutamente, ma vabbè, abbiamo chiuso veramente in dolcezza e in bellezza. Io ringrazio ovviamente lo chef Oldani, ringrazio gli ambasciatori che continuano a fare un grandissimo lavoro, devo dire, Gianluca e tutti gli altri, per portare al centro, visto che insomma questo è un settore pesante dal punto di vista non solo dei fatturati, non solo del PIL, ma anche della rappresentazione del mondo, di tutto ciò che è Italia, e quindi sono in qualche modo non solo ambasciatori del gusto, ma sono ambasciatori del nostro paese in giro per il mondo. Ci vediamo, o meglio, ci sentiamo. Siamo in radio, questa è radio, me lo conferma Oldani? Me lo conferma? Assolutamente sì, grazie Pier, grazie a tutti voi, grazie Gianluca e ci vediamo presto. Presto, sentiamo alla prossima, torniamo altre due regioni, ciao! Ciao! Ciao.